Inner Smile, Texas, Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati veramente al momento dei saluti, però prima voglio dare il benvenuto a Fergal. Ciao. Ciao Alex, io sto qua a fare il mio ballo di Elvis Presley, come nel video di questo, eh. Ma molto molleggiato, complimenti. No, annunciamo così un'anticipazione. Avrai un'intervista molto interessante più tardi, è vero? È vero, allora verso le 18.45 ascoltiamo un'intervista con la Hoover Phonic che ho fatto a Firenze qualche settimana fa. Attenzione, quindi non perdete questo appuntamento, io torno invece domani pomeriggio a partire dalle 16. Ciao Robertino che è quello per la parte tecnica, ha saluto anche Pino Esposito che ci ha informato e lo farà tra pochissimo. Ciao a tutti da Alex, a domani! Dopo il notiziario. Welcome to the future. Southside. Sono le 18, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Everybody, this is Fergal Calvin and you're very welcome to questa edizione of Southside. Questo martedì pomeriggio c'è Roberto Bottone alla regia e abbiamo verso le 18.45 una bella intervista con Hoover Phonic, però iniziamo con Goldfrapp and Human. They fall from your mouth, propelled by your body and your tongue. I saw Goldfrapp è un progetto di Alison Goldfrapp che tra l'altro ha lavorato con Tricky sull'album Max and K e anche con The Orbital e lei adesso parte in tour il 2 maggio, va a New York e poi per 10 giorni o una settimana sarà in America per chiudere a Chicago il 10 di maggio. Allora un altro bel progetto solista questa volta Flight Crank, this is amazing. Our face, the color blue, great day, what to do. Black looks, you feel the gloom. Red blush across the room. Step out of bed every day. Step out of bed every day. Anyway, it's your salvation I'm craving. I often wonder if I'm worth saving. I often wonder if I'm trapped in a dream. The Jubilee set me free. You're amazing, life-saving.

Nobody's Willing to Do the Work. Questo viene dal suo nuovo lavoro, disponibile soltanto in internet. Noi prendiamo una piccola pausa on Southside. Spot Time. Benvenuti, siamo qui con un vero esperto d'arte culinaria. Oh, si dice che le buste Whiskas Piccole Bontà siano molto appetitose, d'accordo? Irresistibili, eh? Lo sa che il segreto è la breve cottura della carne? Non avevo dubbi. E scambierebbe due lattine con una busta di Whiskas Piccole Bontà? Ok, stavo scherzando. I gatti comprerebbero Whiskas tutti i giorni. Vuoi sei buste in regalo? Chiama il numero verde 800 909 330 e ammessa una sola richiesta per nucleo familiare. Kiss, kiss. E tu? Quanto original sei? Io faccio rafting con la tavola da snowboard. Di più, vuoi diventare Maxi Original? Se no mi spacco le ossa. Vieni da McDonald's e gustati un bel Mac Menù Maxi. Ma... avrai un fantastico bicchiere Coca-Cola Originals con solo 2000 lire in più. Mitico, mi faccio una collezione e non mi bagno. Solo fino al 20 maggio, dopo torni in acqua. Oppure? Oppure? Gli Originals sono tanti, cerca il catalogo e raccogli punti anche da McDonald's. Outmin Rick nei ristoranti che aderiscono fino ad esaurimento scorte. Kiss, kiss. La più grande musica è solo su Rockstar. Il nuovo disco di Vasco Rossi, il ritorno di Bruce Springsteen, la svolta dei Depeche Mode, l'ironia degli Aerosmith, i Daft Punk e i JJ 72. Ancora su Rockstar, la crisi dei trentenni, secondo Stefano Accorsi e Fabio Volo. Rockstar ti aspetta in edicola. Kiss, kiss. Hai provato ad esprimerti con la musica? Hai provato ad esprimerti con le parole? Oh, tipa, non ci sto dentro! Hai provato ad esprimerti con lo sport? Dal 1° maggio con Chipster, Fonsis e Yonkers, esprimiti con le mitiche t-shirt Parole di Cotone. Sgranocchia Chipster, Fonsis, Yonkers! Scatta su www.esprimitishirt.com e ogni mese i 1000 più veloci vincono le mitiche t-shirt Parole di Cotone di Benigni, Kerouac, Nietzsche e altri personaggi cult. Leggi il regolamento sulla cartolina e sul sito. Out me Rick! Kiss, kiss! Buongiorno, dimostreremo oggi che avere un cellulare Alcatel OT 301 WAP con carta Omnitel ricaricabile è facile come bere un bicchiere d'acqua, ma è molto più vantaggioso. Infatti se avete sete bevete l'acqua e la cosa finisce lì. Se invece fate benzina alla Esso, vi danno anche i bollini della promozione famosi e preziosi per avere un Alcatel OT 301 WAP nella confezione facile Omnitel. Semplice, vero? Mi raccomando i compiti, tutti alla Esso e poi qui con i regali Omnitel. Presso tutti i gestori Esso partecipanti, Audi 9542, scade il 31/12/2001. Listen to a new radio station. A new sound. Southside. Southside. Quello che avreste voluto sempre ascoltare. In the middle, so I twist and turn. momento sono in tour, hanno fatto il primo concerto ieri sera ad Aberdeen, il tour degli UK, e stasera saranno ad Edimburgo, se vi trovate nella Scozia in questi giorni. Oh ragazzi, gruppi in concerto eccetera, che peccato che non vedremo più in concerto i grandi Scancananzi. Li ho visti quando sono venuti in Italia, è proprio un bellissimo grande concerto, e purtroppo loro hanno annunciato giovedì scorsa che hanno deciso di sciogliersi, e quindi non ci sarà niente di nuovo dai Scancananzi. Però io su Southside adesso vi voglio far sentire un pezzo bellissimo in versione che magari non conoscete. Questa è la versione acustico di Follow Me Down per Manuela. So women on the program today, you heard the voice of Skin on Scancananzi, che purtroppo non ci sono più, e adesso arriva Nick Acosta with Like a Feather on Southside. I Southside. The loudest. The most powerful. Enough for me is not much for you. Won't you forgive me? That's all I can do. Can you feel my heart beat when I'm close to you? Loro vengono dalla Francia e hanno vinto il migliore nuovo artista l'anno scorso in Giappone, quindi sono enormi là. Allora, che è successo questo giorno nella storia della musica? Oggi 24 aprile torniamo indietro dal 1977 e troviamo i Talking Heads che hanno fatto il loro primo tour europeo come spalla a The Ramones. Here they are with Psycho Killer. Can't relax, can't sleep, bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fucking fire, fucking fire, fire, fire, fire. You're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Wow, non lo so se voi avete visto il film di Stop Making Sense, cioè quello dei Talking Heads, dove David Byrne fa questo prima che i resti del Talking Heads arrivino sul palco. Sfiziosissimo! Questo è Razzo Hardaway Reality! Don't wanna see no more reality. All I wanna is get fucked up and see your blood. And I'm on me. It's not the first time I feel this way. Since I gotta come through without you. Sometimes I'm clear in my head again. When I remember you was forgotten. I don't wanna see no more reality. I got a key to the door of a place where nobody knows me. I don't know the name of the days passing by every day. They're the same anyway. And somehow I feel fine lonesome. And now I see good how it feels to be moving away far from the games people play. And I'm gonna be fine without ya. Without ya. And I'm gonna be fine without ya. My own man bought a ship, and he sailed away, and he never came back. But that's how life is, they say, down here. I know now, once you think everything is in check, the Lord's gonna make it show. He's the only one to make it all happen, or not happen. You don't wanna feel no more reality. You said to stay home making friends by the screen through the wet right. But me, I'm so left alone. I don't know where to go. Don't feel safe around me. When I try to get close, y'all, I wanna feel y'all. I wanna get close, y'all. Closer. I wanna feel you. I wanna get closer. Dai pezzi che ha conosciuto attraverso Southside, it's Reality, Razzo Hara, bellissimo. Il segreto del nuovo Nissan Micra è Micra Glamour, è trendissima per quello piace ai giovani. È Glamour, deliziosa, con gli interni eleganti in tinta con la carrozzeria. Ed è oggi ancora più fresca grazie al climatizzatore incluso nel prezzo su tutta la gamma. Ma se il fresco non vi interessa e hai un usato da rottamare, reggiti forte ed ascolta. Micra è tua da 16.200.000 lire. Avete capito il segreto? No? Nuova Micra Glamour, chiedete a chi una Micra ce l'ha già. This is the Kiss Kiss Network. Southside. The loudest. The most powerful. A worried man with a worried mind. No one in front of me and nothing behind. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. Got white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the noose. Any minute now I'm expecting all hell. I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I slept in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. gonna dress in drag. Oh, what a fool I hear would think you've got anything to prove. Lot of water under the bridge, lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to have, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds can be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jump in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Things have changed per Bob Dylan, che ha vinto un Oscar dal film The Wonder Boys. Bellissimo, pubblicità per noi. Spot time. E stasera mi metto un top di Strauss e un bolero di paillette, un fuso di latex e dei saboti lamé. E tu? Voulez-vous? Risposta esatta, meno chiacchiere e più gusto con Voulez-vous, il nuovo delizioso Würstel con la qualità Principe di San Daniele. Fragola, fragola, fragola Paolo. Pesca? Luca. E ciliegia? Beh, ciliegia Andrea. E arancia? Ah, l'arancia bacerei sicuramente Marco. Nuovo Labello frutta. Arancia, ciliegia, fragola e pesca. Dolce, colorato e profumato. Labello, labbra da baciare. Kiss, kiss. Ai bordi di una strada, due zanzare, Tanza e Punza, stanno chiacchierando. Ehi, Tanza, dilatano il sangue gratis. Dipendenza, dai che si va. Aspetta, vedi in lontananza una Peugeot 206 HD. È un diesel, ora che dà gas. Ho tempo. In abbondanza. Allora vado, vai. Peugeot 206 HD, l'insetticida, circola anche in confezione turbo diesel Common Rail 90 cavalli. Tanza, hai visto che potenza? Tanza, Tanza. Peugeot 206, enfant terrible. Kiss, kiss. Se leggi Vitality, si vede. Questo mese Vitality ti svela tutti i segreti per una forma perfetta. La dieta della Macedonia per perdere 5 kg in un mese. Fitness, seno da pin-up con la box. Dimagrire a suon di pasta. Ma c'è di più. Vitality è in edicola a sole 3.500 lire. Kiss, kiss. Sì? Pronto? Concorso Digital Gusto Amorositas? Con che? Ma lo sa che ore sono? Sì, è l'una di notte e so anche cosa si vince. Ogni giorno t-shirt, lettori DVD ed MP3. E con l'estrazione finale, tante fotocamere digitali. Insomma, ho vinto. Vinto un corno! Sveglia, il numero giusto è 02 44 88 6 88 6. Oppure vai sul sito www.morositas.it. Concorso Digital Gusto Amorositas. Digiti giusto, vinci di gusto. Pronto? Concorso... Ancora? Out me. Kiss Kiss Network. Here we are again. Hello, West, all the way from Helsinki in Finland. Sono i Chemo Petrol with Child Is My Name. E li ho visto in concerto a Firenze qualche settimana fa, quando hanno fatto il support al Hooverphonic. È veramente bello. E adesso ascoltiamo l'intervista che abbiamo fatto con i Hooverphonic quel giorno. Hey, I'm Kieke and I sing for Hooverphonic. Il primo grande hit di Hooverphonic è stato Tu Wiki, che viene dal film di Bertolucci, Io ballo da solo. Allora, all'epoca è stato cantato da un'altra ragazza, Laige, e ho chiesto come è cambiato il brano per i Hooverphonic con il nuovo cantante Jaike. E prende la parola Alex. And to be honest, you know, I like the Leeds version, you know, because on the album it was a very mellow album, that one. But I think, you know, like as a band you evolve, and after a while we started playing a bit more rock and roll, you know, like and then Gaiki is much better at this kind of, like, you know, coping with a band and like putting much more emotion in it, you know, like I think the reason why Gaiki is the best singer according to us is because she has more dynamics in her voice. It can go from very sweet to very heavy to very harsh. And that's actually, to be honest, a bit what Tu Wiki was about. It was all about, like, you know, at first sight a very nice girl, but, you know, at a certain point, you know, the sharp edges kind of like start, like, you know, coming out, and so you need a lot of contrast and a lot of dynamics in the vocal to produce that kind of vibe, especially on stage. And so Gaiki just, I think, took it on another level from the very mellow, sweet song into like a very kind of passionate song. Allora dice Alex che gli piace molto la versione originale di Lige, però quando è cambiato il gruppo con gli anni si sono reso conto che Jaike è anche meglio a lavorare con col gruppo, che c'ha una voce molto dolce che può essere cambiato anche heavy, pesante, e c'ha molto più dinamici sul palco. Twiki è un brano che parla di una ragazza molto carina, simpatica, però ha delle cose un po' più dure dietro, e Jaike porta questa canzone ad un altro livello, da mellow ad una canzone molto passionale. Allora poi ho chiesto a Jaike come si sente cantare un brano che è stato scritto per un'altra cantante. How do I feel about it? I don't know, it's never really been a problem for me, because I just enjoyed the experience at first and singing good songs on stage and being able to do all that, and I just did it my way. At first I think it must have sounded like I sounded like Lisa or whatever, but I never really heard that comment too often. It's only now that you hear what people thought at that point, so and now I'm the singer of Hooverphonic to Kushin. Allora Jaike dice che non è mai stato un problema e sta godendo proprio l'esperienza di cantare bei brani proprio, e ha iniziato a cantare proprio in modo suo. All'inizio nessuno faceva confronto, solo adesso che si fa un paio di confronti tra le voci di Lige, però ormai lei è il cantante di Hooverphonic e non è un problema per lei adesso. E allora ascoltiamo questo pezzo di cui parlavo, questo è The Hooverphonic with Twiki. You can hurt me. Questo è Tweaky dai Hooverphonic, viene dal film Io ballo da solo. Stiamo intervistando i Hooverphonic e quindi gli ho chiesto se, siccome tanti dei loro brani sono stati usati nel colonna sonora o in pubblicità, se avevano mai scritto un brano proprio per un pubblicità o una colonna sonora. No, but then again, all our songs are already like soundtracks to songs that to films that don't exist, you know, so it's like I think it's sometimes even more inspiring to write like a soundtrack to a film that doesn't exist than to write one for a film, although it's two different worlds and you can't compare them. Writing for film, you have like strict deadlines, you have like so many more people to, like, you know, to listen to. You have a producer, a director, an assistant director, like the sponsors, everybody, you know, wants to say in the whole thing, you know. So it's quite different from a Hooverphonic album where we just are with three people in the studio and then maybe a producer, or sometimes not. It doesn't really matter. So you control it much more and you really, like, you know, it's more creative, and I like what people say about our music, that they listen to it and see all these pictures and all these images, you know, like, and sometimes it's really funny, you know. Some guy mentioned to me that the Magnificent Three gave him the kind of underwater impression, you know, like with our music it just like is so more creative, you know. People make their own movies about it and that's fun. Questo è Alex che dice che tutte le canzoni di Hooverphonic sono come i colonne sonore di film che non esistono. Praticamente scrivere un canzone da solo o scriverlo per un film sono due mondi totalmente diversi, perché per i film c'è il regista che vuole parlare, il produttore, ci sono le scadenze eccetera, mentre per le Hooverphonic da solo è più libero e le piace il modo in cui la gente ascoltano la loro musica e creano le proprie immagini. Per esempio c'è un tipo che ha detto il nuovo album di Hooverphonic, The Magnificent Three, gli ricorda il feeling di essere sotto acqua. Gli piace il fatto che ognuno porta la propria interpretazione al brani di Hooverphonic. Allora poi ho chiesto a Jaike se, siccome adesso canta in tour live, se le piace più cantare live o in studio. Ecco la sua risposta. I think in the first place singing as loud on stage is because I have to get above all the rest of the instruments and I have to get to hear myself. And the both just, I don't know, feel very different. And I used to love performing a lot more, but I think singing in the studio is very just different, and I've grown to like it as well. It's just, I don't know. Jaike dice che canta forte sul palco proprio per sentire la sua voce con tutti gli strumenti che ci sta. Gli piaceva molto per fare il performing live on stage, però adesso sembra che gli piace molto più cantare in studio. E infatti ascoltiamo la bella voce sua sul tracce di Hooverphonic, This Is Mad About You. I'm Alex, playing bass in Hoover Phonic, and he is... Raymond, I'm Raymond, and I'm also playing, not playing bass, but I'm playing guitar in Hoover Phonic. Hello, and I'm Heike, and I sing... Southside on Network. Oh, grande, bellissimo questo intervisto. Voglio ringraziare ad Andreas che mi ha concesso di intervistarli, pure ad Enzo che ha montato tutto. Bravissimi. Allora, avanti con la musica. Ascoltiamo un pezzo prima di chiudere, perché dobbiamo fare i saluti finale domani e un altro giorno. Allora, adesso mettiamo, se non sbaglio, Etienne de Grecy with Scratched. E così, Roberto, confermelo. Yes, live in direct on Radio Kiss Kiss Network. This is Etienne de Grecy and Scratched, almeno per un paio di minuti, perché dobbiamo chiudere e andare via. Però il piacere di rimanere ci sta. From Etienne de Grecy, sì, purtroppo le dobbiamo tagliare, però non vi preoccupate, magari la mettiamo, ok, giovedì in sua versione completa. È il tempo di andare. Voglio ringraziare Roberto Bottone, voglio ringraziare a tutti quanti voi. Domani torniamo con un programma tutto organizzato per la Festa della Libertà, non vi preoccupate. This is Fergal Governess and goodbye, a domani. Southside. Per un'ora Fergal si proietta nelle nuove tendenze. Sono le 19, ancora un appuntamento con l'informazione.